Cari amici di Radio Big World, rieccoci in compagnia di Paolo Ottaviani, il bravo poeta che abbiamo già incontrato la volta scorsa e che oggi ci leggerà alcuni suoi componimenti. Ed eccoci alla lettura dei testi poetici, da Funambolo a Apocope. Esile azzurro di settembre, dolci cosmogonie lungo i filari, al chiurlo del falcetto si stroncava la gramigna infestante e le celesti meccaniche che ingenue, senza gli dèi, ruotavano le stelle e la mia essenza. Esile azzurro dei tuoi occhi, apocope del mondo, la tua mano, salda sul raspo e lieve alla secreta pruina, segnalava già solitario il tuo destino, e il grappolo dell'uva proponeva ad altri occhi, i miei, di svanire lenti, quasi cantando. Pastello. Funghi sulla collina, aria che zampilla e ride la maestà di querce secolari. Allegro il mondo. La pecora china al suo pasto d'erba e di saggezza, bianca sul verde. Fantasmi. Gioia di vivere è questa notte tutta distesa lungo l'inesausta fiamma di un caminetto. E un Dio ondeggiante illumina e nasconde ogni viva cosa e la sua dolce essenza. Da Geminario leggerò il Gemino primo, facendo una sorta di sperimentazione. Leggerò prima una quartina dei versi senari in rima alternata e subito dopo la corrispettiva terzina di endecasillabi. Piagniano in bianche piste d'erenella su imparcite panche de nicchia o cappella. Piangevano in silenzio lungo bianche stradine, impervi, renosi sentieri, dentro nicchiette su tarlate panche. Rufriscu de noa erbetta e de luna, benanche che pioa orbata fortuna, la pungente frescura della luna, dell'erba rugiadosa, benché triste cada la pioggia e malvagia fortuna, aprile era dolce de cieli e sperella, a buio retorce era marturella. Dolce stagione era d'aprile, bella di passeri nel tiepido del sole, fiaccole a notte, poi la marturella. Lufero battuto, un chioato sul legno, sonava chercuto, rupuoro congegno. Ferro battuto, inchiodato nel legno, con il rintocco sordo un chierichetto, mesto cantava, musica d'ingegno, e l'arba s'arzava slargata de luce, de sopra nottava, rocanto recuce, e l'alba cristallina risuonava, schiusa alla luce tremula di rosa, l'armonia si alzava di un'ottava. Madonne de terra, un suffio de voce, clinata maniera, rensegue veloce. Madonne di ceramica moschiata, e quegli occhiuti rapidi bisbigli correvano tra gente inginocchiata. Ra luna pasquale a yamà calante, su ruca pezzale un radio sclarante, pallido raggio di luna pasquale, volta d'oriente, già in fase calante, mal fermo lume intorno al capezzale. Veglietti d'aprile e parimo suoro, derento un sottile, bagliato tesoro. Il padre solo stava nell'aprile, quasi temendo ferita di luce, del suo spirito segreto e gentile. Quegli 48 che mi ha figliato, ariamo rutto rosugno sognato. Quel 1948, tempesta che mi aveva generato, sogno sognato avrebbe presto rotto. De una roscia terra comunista e mansa, dopo fame, guerra, pressione e mattanza. Di un comunismo buono e rossa terra, per uomini e animali generosa, dopo prigione, genocidio e guerra. E adesso andiamo subito da Trecce sparse. Leggo Treccia delle stelle di agosto. C'è una nota che dice in viaggio verso l'Estonia, il paese originario di mia moglie Mailis. Ho indagato il timore che mi assale d'agosto, quando penso le stelle delle notti di agosto, quell'intimo bagliore, fulmini e gazzelle, rose ardenti nel buio, divorate dal buio, e i volti che mi sono così cari, dispersi dentro le mie pupille, nel gorgo di universi dal radente abbandono. Fughe, voli, scintille, dove l'amore è pietra, la sabbia, canto, eccetera. Nuda, tra le stelle nude, erra la terra, ed io tra le stelle erro nudo in terra. Un brivido mi corre lungo la schiena, o magra cerchia di quelle vette spoglie che nella sagra dell'anima precorre le mie visioni elette negli azzurri del cielo. Confine parallelo che timido si incise perenne nella mente e ora e sempre mi salva. La montagna, umilmente, mi è sorella. Sorrise la roccia agli avi e salva fu la memoria e il sangue più limpido, altro sangue, generoso, sogna. È là a passeggiare, ma va la cicogna per nuvole e mare. Da piccolo epistolario in versi, una piccola corrispondenza poetica scritta insieme a Walter Cremonte, leggo la croce piegata. L'impeto dei venti o il peso delle nevi ha piegato una grande croce di ferro piantata lassù, in cima al Monte Vettore. Speriamo per noi benedicente, si augura fraterno un amico. come segno d'umile potenza. Ma il vento soffiava più forte e cadranno altre nevi, nevi. Da Nel rispetto del cielo, graziosa Epifania. Dove andrà questa sera piovosa di settembre? In quale antro d'azzurro? In quale schiera di morti? In quale pianto di novembre? Dentro quale memoria di roccia ogni goccia si farà storia, fulmine e poesia? Graziosa Epifania di una pioggia immortale che ricade sui vivi ma bagna i morti nell'Ade. E infine, sempre da Nel rispetto del cielo, un viaggio ignoto. Passeggio per i chiostri, un po' sopra pensiero. Dal cuore mi zampillano dei mostri in forma di parole. Un messaggero, un albero, un villaggio. In cerca di una vita in un viaggio ignoto, in un altrove. Ora non so più dove e con chi sono e se mi perdo insieme alle parole o dentro un nuovo seme. Grazie davvero a tutti per l'attenzione e per l'ospitalità. Un grazie particolare ancora a Pietro Pancamo. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.